ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Il suo nome è Alessandro Milan, ma il Ciamentiti Alino. La vita per lui le propri nera, e il gas sempre di Ulmanera. Ulmanera. Uno, uno. Uno, nessuno. Uno, nessuno. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Va bene, cari ascoltatori, 9 minuti, siamo qui a chiudere questa settimana, ricordo la prima decisiva per la riforma elettorale nuova. Cari amici, oggi c'è Paolo Corleoni in regia. Ciacaloglu, sonio da Ciacaloglu, Ali, perché io dormi la sesta e sta minuta, jedan. Dva grasta podcast, povedeli. In russo l'abbiamo messo. Voto di supervegeli, onda prima, cialotto, arcan. Ciacaloglu. Ah, vabbè. Cosa succede? Ma cos'è? Campionato? No, boh, no, vabbè, dai. Siamo andati avanti. Vabbè. Due preliminari passati e una vittoria in campionato. Io chiuderei la stagione qui. 100% di vittorie e siamo a posto. A posto. Va bene, 9-10 minuti. Dicevamo, c'è Paolo Corleoni in regia. Lo salutiamo. C'è Emilia Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione. Siamo qui 800 24 00 24, con voi se volete chiamarci. 349 238 6666, numero per i vostri messaggi. Tanti temi da affrontare. Per carità, non andiamo a fare la guerra all'Inghilterra, però partiamo da qui oggi, eh. I will not be easy. Appunto. It will not be easy. Ecco, se andiamo a fare la guerra linguistica perdiamo. Però voglio partire proprio da noi e loro, loro e noi, l'Inghilterra e noi. E il Covid di mezzo. Il Covid c'è da sempre, da marzo, voglio dire, sempre ci sarà per un bel pezzo. Perché voglio partire da qui? Perché, beh, se il presidente della Repubblica Mattarella, a margine di un convegno, era tra l'altro in Sardegna a ricordare l'ex presidente della Repubblica Cossiga, dice, rispondendo alla domanda, alla questione di Boris Johnson, premier britannico, che fa notare che in Inghilterra è difficile far rispettare le norme a tutti, perché l'Inghilterra, a differenza di altri paesi, si riferiva all'Italia, alla Germania, è un paese che ama la libertà, sono liberali. E se il Presidente della Repubblica arriva a rispondere, anche noi amiamo la libertà, noi italiani, ma abbiamo a cuore anche la serietà, non è molto istituzionale che un Presidente della Repubblica, sempre molto preciso, no? Sì, risponda a tono. A che cosa? Partiamo proprio da quello che Boris Johnson ha detto qualche giorno fa. Ve lo faccio sentire in inglese. And actually, there is an important difference between our country and many other countries around the world. And that is, our country is a freedom-loving country. Insomma, la differenza è questa con altri paesi, dice Johnson, che noi amiamo la libertà. E per questo motivo, in tutta la nostra storia, abbiamo dimostrato che è difficile. Chiedere alla popolazione britannica di rispondere, di uniformarsi a una serie di regole. Professor Luca Richeldi, buongiorno professore. Lei, buongiorno a lei. Lei fa parte del Comitato Tecnico Scientifico, è presidente della Società Italiana di Pneumologia, insomma dirige il Dipartimento di Pneumologia al Gemelli e ha lavorato anche in Inghilterra, tanto è vero che lei ha detto mi hanno chiamato vari parlamentari a capire, insomma, qual è il modello italiano, qual è il segreto di un contenimento di contagi che invece in altri paesi, Inghilterra compresa, non c'è. Perché l'hanno cercata, professore? Ma perché c'è un gruppo di parlamentari che tra l'altro si chiamano All Parties, cioè sono affiliati a tutti i partiti, che sta cercando di capire attraverso audizioni pubbliche, peraltro, con vari esperti di vari paesi, che cosa non va e che cosa non è andato in Inghilterra. E diciamo, alla domanda come avessi io reagito alle misure che erano state messe in atto dall'Inghilterra all'inizio della pandemia, sì. La mia risposta è stata che ero stato scioccato naturalmente da queste misure, perché come voi sapete, come tutti sappiamo, hanno avuto un vantaggio di tempo rispetto a noi straordinario, che non hanno sfruttato, e oggi si trovano ad avere più morti loro rispetto a noi. Sì. Quindi è stata per loro una debacle, credo, una mezza catastrofe, non solo di sanitaria ma anche di immagine. Insomma, hanno voluto capire invece come si fa. Ecco. Hanno voluto capire come andare avanti da adesso, e soprattutto gli errori che hanno fatto, perché a mio parere questo è importante. Anche per noi, per tutti i sistemi, eravamo tutti impreparati. Credo che ormai, ovviamente, piangere sul latte versato ha poco senso, ma prepararsi per il futuro sia la cosa più importante da fare. Sì. Allora, professore, mi faccia salutare uno scrittore, giornalista, che non ha bisogno di molte presentazioni, che l'Inghilterra la conosce molto bene anche l'Italia, conosce anche molto bene i paragoni, e io davanti il suo ultimo libro, che è un manifesto dal titolo Neo Italiani, edito da Rizzoli, Beppe Severgnini. Buongiorno Beppe, grazie di essere qui. Grazie Alessandro, tra l'altro del tema ho scritto anche stamattina sul sì, Corriere. Eh sì, e infatti io volevo chiederti sia una risposta a Boris Johnson, ma prima io leggo proprio dal manifesto che hai scritto, cioè i 50 motivi per cui essere fieri di essere italiani, al numero 3, perché sappiamo essere seri, ma lo ammettiamo malvolentieri. Quella serietà che Mattarella ha voluto mettere così davanti a Boris Johnson, che ne pensi? Ah, penso che certamente il Presidente della Repubblica non ha bisogno di aprire il mio libro per ispirarsi, però non c'è dubbio che la coincidenza è curiosa, e il numero 3 dei miei 50 motivi per essere italiani, che non sono così un manifesto genericamente ottimista, questa roba qua no, lascia il tempo che trova, sono: signori, questi secondo me, ho passato i 60 anni, ho girato tutto il mondo, ho vissuto tanti paesi e ho visto le differenze. Secondo me questi sono i 50 nostri punti forti. Se li conosciamo, possiamo lavorare sui punti deboli, che se non sono 50 sono parecchi, mettiamola così. Il punto 3 è che c'è l'elenco, perché siamo fragili quando pensiamo di essere forti e viceversa, e il numero 3 è siamo seri, sappiamo essere seri, perché sappiamo essere seri, ma lo ammettiamo malvolentieri, quasi temessimo che ci rovina la reputazione, che è una roba da matti. Sì. Sì, la reputazione dell'italiano che se la cava. Ci piace fare il geniale, improvvisatori, inaffidabili. Questa reputazione, la verità è che il professore, io conosco il professore di fama, ma tanti altri suoi colleghi a Roma, a Pavia, altrove, a Bologna, che fanno gli stessi mestieri, che sono stati anche in passato, hanno provato magari con i colleghi inglesi a dire qualcosa. C'è gente seria nell'università. C'è gente seria nelle aziende, c'è gente seria, ne parliamo sempre, sembra banale, però non è che dobbiamo studiare, gli artigiani italiani sono i più bravi, non è la solita... Allora, perché dobbiamo stupirci? Non stupiamoci, cerchiamo di lavorare su quelli meno seri, che ci sono anche quelli. Un po' di stupore, però tu lo sottolinei oggi sul Corriere della Sera, perché effettivamente, io l'ho detto, non è molto rituale la risposta di Mattarella. Certo, io c'è da dire, senza fare una tirata italiana, però prendere lezioni da Boris Johnson, che negava il virus e poi è finito in ospedale in serie condizioni per lo stesso virus, e diceva non è vero, sì è vero, chiudete, aprite, ecco, forse Mattarella, come dire, ha lasciato da parte un po' la plomb per qualche secondo e gli ha voluto rispondere a tono. Tra l'altro, uno dei medici che l'hanno curato è al St. Thomas Hospital, si chiama Luigi Camporota, è nato a Catanzaro, me ne parlava, io ho un amico che fa il primario di pneumologia al Sant'Orsola, si chiama Stefano Nava, è molto noto come pneumologo, che conosce bene Camporota, quindi mi raccontava un po' questa vicenda, al di là di quello che avevo letto. Allora, posso dire una cosa, io conosco Boris Johnson anche personalmente, 20 anni fa, una volta a Mosca, due volte a Londra, abbiamo diversi amici comuni. Allora, io non do una spiegazione scientifica, vi vorrei dare una spiegazione di uno che conosce il personaggio, la persona e l'Inghilterra. È una piccola attenuante. Allora, il question time della Camera dei Comuni ha un aspetto teatrale spettacolare, che è anche il suo bello, sì, e semmai ci manca un po' in Italia, quella roba lì. Quei buu! E allora, era mezza vuota, e quindi di e di buu, insomma. Però, insomma, in questo ha sempre avuto... lui si alza, si appoggia al... lo ricordate, alla box che sta lì e risponde. In Italia spesso il presidente del capo di governo di turno è evasivo, non risponde, succede spesso nella storia, invece là deve finire con una battuta. Allora lui ce l'ha in più, è un giornalista, ha studiato a Oxford, a Eton, prima e Oxford negli anni 80, dove questo è portato al, cioè non puoi non chiudere con una battuta. Allora lui ha voluto fare il brillante per forza e ha detto questa cosa senza pensare bene che sei un capo di governo e dire noi non rispettiamo le regole perché siamo liberi. E poi parli gli pare che ci paragona agli italiani. Sì, poi non lo so, cioè mi sembra l'iconografia dell'Inghilterra che tutti abbiamo, anche chi non c'è stato, è che si rispetta la coda, che si sta in fila. Dice, ma adesso è un popolo che non rispetta le regole. Avrei detto proprio il contrario, così istintivamente. È un popolo, sai, quella risposta poteva funzionare di più per gli Stati Uniti. Là sì, il problema è stato che hanno questa idea. Gli Stati Uniti sono nati da una ribellione dagli inglesi. Allora, là sì hanno un'idea parossistica della libertà, esagerata, per cui puoi portare un fucile mitragliatore perché se ti dicono di non farlo è un attentato alla libertà, che secondo me è una sciocchezza invereconda, sì, stavo per dirvi peggio. Però è più americano, ma gli inglesi no, la forza degli inglesi è stata dall'impero a tutto il resto la disciplina e il lavoro di gruppo. Eh sì, allora adesso arriviamo a qualche altro punto del libro. Prima fammi tornare dal professor Richeldi. Professore, lei fa parte appunto di quel comitato tecnico scientifico. Cosa prova a sentire anche la solidarietà, immagino, degli inglesi che chiamano e dicono ci faccia sapere che cosa possiamo fare adesso? Sa, chi è nel suo ruolo, comunque nel comitato, si attira anche critiche dei cittadini, che però secondo me i cittadini italiani rispondono in maniera disciplinata. Ecco, che effetto le fa? Quasi una sorta di complimento al lavoro che state facendo, che è un lavoro delicato, ricordiamo. Beh, sì, da un certo punto di vista sì, perché ci siamo trovati, essendo stati i primi ad essere colpiti, così nella necessità di inventarci un po' anche alcune regole. Ricordo l'iniziale lockdown, che è stato il primo che è stato fatto al di fuori della Cina, è stato fatto quando alcune regioni d'Italia avevano sostanzialmente zero casi, quindi anche chiudere in casa persone quando fuori non c'è un pericolo percepito è stato abbastanza complicato e abbastanza difficile. Ora, trovarsi insieme anche con i colleghi inglesi a cercare di capire come affrontare questa fase è una cosa abbastanza importante, collaborare, anche perché il rischio che io vedo in questo momento, il rischio forse più grande, è quello della frammentazione degli approcci, sia tra diverse nazioni, nel nostro paese tra diverse regioni, perché è difficile pensare che se ci sono due regioni che hanno due approcci diversi, uno sarà sbagliato o uno sarà più giusto dell'altro. Sì. Serve molto importante avere un coordinamento. Quindi io leggo questo tentativo del Parlamento inglese di cercare, diciamo, un consenso a livello europeo, appunto nel non suggerire poi al proprio governo una linea, diciamo, unitaria. Non so quanto ci riusciranno, perché a mio parere, se posso fare una piccola battuta, l'intervento di ieri di Boris Johnson, ho apprezzato quello che diceva Beppe Severgnini sul background culturale degli inglesi, ma potrebbe anche confermare che questo coronavirus è un tropismo per il sistema nervoso centrale, perché è stata una reazione, secondo la reazione di Johnson, fuori. Sì, un po' nervosa, fuori dalle righe. Sì, leggo sempre da uno dei punti del manifesto di Severgnini, insomma, per cui essere fieri di essere italiani, perché molti ci criticano ma quasi tutti ci copiano, è il punto 26. Beh, insomma, è un po' anche qui, Beppe, la stessa questione, insomma, di prima. Ci criticano, però poi siamo in questo momento, dal punto di vista del trattare l'emergenza, siamo effettivamente un esempio, cioè i numeri ci dicono questo, no? L'avresti mai pensato, Beppe? Certo, allora, una cosa per il professore, guardi che Boris Johnson era così anche prima. Do la mia parola, dovesse vederlo a Mosca nel 2000, era così anche prima. Detto ciò, allora, quando io ho scritto il libro non è un diario del lockdown, non è, è diciamo il lockdown mi ha dato la motivazione, però questo è davvero un ritratto a tutto tondo, io ci provo del mio paese che voglio molto bene e dove ho deciso di vivere per tutta la vita al di là dei periodi all'estero, quindi quella frase, quel motivo, grazie ad averlo citato, per caso si è adatta anche questo, perché tutti ci criticano, ma molti ci criticano, ma tutti ci copiano, io però pensavo per esempio a tante altre cose, all'alimentazione è uno, la nostra tipo di dieta è diventato lo standard per tutti i paesi avanzati del mondo o molti paesi avanzati del mondo, dell'Occidente almeno, e ci sono molti altri esempi, quindi è vero che molte cose le sbagliamo, le città medie, io ogni volta che vedo amici inglesi, tedeschi, americani, francesi che arrivano in Italia e vedono la mia piccola amata crema, io vedo l'ammirazione, ma anche gli urbanisti vanno a studiarli, perché una città come Crema ha tutte le caratteristiche per essere imitata, perché è benestante, è ricca, è sicura, funziona, e di Crema per fortuna l'Italia è piena, ci sono molte città di queste dimensioni, potrei andare avanti, però è vero, molti ci criticano, ma tutti ci copiano, non su tutto naturalmente. Non su tutto, no, cioè abbiamo anche i nostri bei difetti. Professor Richeldi, le posso chiedere lei cosa ne pensa da pneumologo della riapertura degli stadi, o meglio, l'allargamento come tifosi agli stadi, alle manifestazioni? Io personalmente penso che una parte dei motivi per cui adesso ci troviamo in una situazione relativamente positiva, perché ricordiamoci che comunque anche noi abbiamo un incremento giornaliero delle persone ricoverate in ospedale o ricoverate in terapia intensiva, però questo incremento è un incremento minore rispetto ad altri paesi. Io credo che una parte dei motivi per questa situazione sia il fatto che è stata scelta una riapertura graduale, sì, per step e molto controllata. Ricordo che noi abbiamo chiuso le scuole il 5 marzo e l'abbiamo riaperto il 14 settembre, cioè abbiamo avuto tutto il tempo di preparare una riapertura controllata. Credo che questo debba valere per tutte le attività, quindi graduale vuol dire scaglionata e controllata vuol dire naturalmente con dei protocolli molto precisi. A me pare che in questo momento in cui abbiamo avuto a metà settembre la riapertura delle scuole, che ha messo in movimento milioni di persone e le cui conseguenze sono ancora sconosciute, perché ancora non stiamo vedendo gli effetti potenziali di questa messa in movimento di persone, si obblighi, a mio parere, a non prendere altri rischi concomitanti. Per cui in questo momento, a mio parere, io rimarrei fermo e vedrei gli effetti di quello che abbiamo fatto, a cui abbiamo dato la priorità. Salvo poi in futuro eventualmente a riprenderlo in considerazione. No, ma è chiaro, qui al momento no. Quindi, caro Beppe, la tua amata Inter, niente, vabbè si può entrare. Posso dire una cosa? Secondo me ha ragione, perché ha creato un problema nelle discoteche quest'estate, perché è stato improvvisamente una riapertura di un posto che non sembrava molto logico. Io sono solo un giornalista, uno scrittore, non sono uno scienziato, un medico, però da quello che abbiamo imparato in questi mesi sembrava, e infatti le conseguenze sono state negli stadi, vuol dire, secondo me, se tu metti 2000 persone su uno stadio da 80.000 ben scaglionate, entrano una per volta, è una cosa, se ne metti 25.000, sì, quindi un quarto della capienza. Ma poi ti immagini partite importanti, dai, figurarsi se la gente non si abbraccia, salta addosso. Ma sì, ma il libro, io come altri colleghi, io quest'anno sono stato a Mantova, a Pordenone Legge, a Camogli, ho presentato in Sardegna 4 volte, non ho mai visto né avuto problemi, perché c'erano, non so, 200 persone, entravano, stavano distanti. Basta fare le cose gradualmente con buon senso, e questo permetterebbe la riapertura di tante cose, per esempio i ristoranti hanno riaperto perché hanno osservato questa gradualità. Sì. Lo stadio sembra una roba piuttosto bizzarra. Un po' sì. Allora, per concludere, io nel ringraziarvi, Beppe Severgnini nel libro cerchi anche di rispondere alla domanda a cui cercano di rispondere tutti, usciremo migliori, usciremo peggiori, poi una generalizzazione non si può fare, c'è chi uscirà meglio e c'è chi uscirà peggio da questa situazione, e tu dici sicuramente andiamo avanti e non indietro, che può sembrare una banalità ma non lo è, nel senso andiamo avanti in maniera progredendo, ecco, saremo diversi saremo migliori, spero. Io non penso che siamo andati indietro, Alessandro. Appunto. Non penso, perché quello che vedo intorno a me è già il discorso che abbiamo fatto adesso, stamattina, noi tre, in 10 minuti, e qualcuno ci sta ascoltando. Credo che saremmo stati coperti di tutti quanti, e voi, pensa solo 3 anni fa, in cui la competenza, la scienza, la cautela era vista così come... Allora, sì. Erano derise. Allora, secondo me un pochino più seri siamo diventati, la percentuale non la so, ma i neo-italiani, non perché ci ho scritto un libro, sì, ma davvero, i neo-italiani qualcosina l'hanno imparata, io sono convintissimo di questo. No, visto che il titolo la fai bene, perché Paride ci scrive, mi ricordate il titolo che mi sono collegato adesso? Eccolo qua, allora, i neo-italiani senza i, neo-italiani, il manifesto di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, ovviamente lo trovate in libreria, grazie molte Beppe. E ovviamente ti lascio, come lascio tutti gli amici interisti, amici tra virgolette, ovviamente. È l'anno dell'Inter, sicuro. Che simpatico. Professore, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È buona l'anno giornata, dell'Inter. Saluto anche il professor Luca Richeldi, grazie per essere stato qui con noi. E vabbè, devo gufarla così in qualche modo, perché è l'anno dell'Inter veramente, quindi devo cercare in qualche modo così di mettere un po' di zizzagna. 9:29, signori, è venerdì, e lui mercoledì mi ha detto: o giovedì o venerdì vengo in radio. Oggi mi sono alzato, ho guardato il cielo, a Milano è plumbeo, ma non piove, e quindi se tanto mi dà tanto, 1 + 1 = 2, Leonardo Manera, eccolo qui, è in studio, e ha mantenuto la promessa, è incredibile questo, dopo la pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, Leonardo, buongiorno intanto. Buongiorno, se sei qui, buongiorno. No, allora, mi ha detto qui Paolo Corleone di mettere la spugna, io l'ho messa. Sì, ma hai messo la spugna davanti alla bocca, infatti ti risulta una voce un po' nasale. La spugna va davanti alla bocca. No, devi metterla sul microfono. Ah, attaccata al microfono, avevo sì, capito sopra, sulla bocca. Sopra, come se fosse un... Non vabbè, qui, non attacca davanti alla, no, dentro la bocca. No, metti sul microfono. Che non posso metterla dentro la bocca direttamente. Così si sente adesso in diretta, bello che metti il rumore sul microfono, un cappuccio sul microfono. Ecco fatto. Ecco qua. Come sono lì? Che... Vedo bene Paolo Corleone fare il questurino. Questurino. E lì dice: metti la spugna, metti la spugna. E io l'ho messa subito. Lì gli piace governare, dare bacchettate. C'è anche un frustino lì, vedi, a fianco. Ma si vede che le tendenze di Paolo Corleone sono quelle. Sono quelle. Oh, che bello! Torna. Perché torna. Sai perché torna? Perché praticamente qui è un po' che mancava Paolo Corleone, sì, no, in regia. Sì. E quindi meno poi male. Si ricorda sempre le cose di quando è stato l'ultima volta, anche se ormai sono passati magari mesi, a volte anni. Guarda Leonardo, che se oggi tu non venivi in radio, dopo quello che hai detto, io ti assegnavo d'ufficio un bel premio Giachetti, ovviamente al singolare. Anzi, guarda, visto che sei arrivato lo stesso, te l'assegno lo stesso. Oggi è venerdì, sei entrato così con questa prosopopea. Hai la faccia come il culo. Ma se sono qui, vabbè, sono venuto nonostante il cielo plumbeo, come hai detto tu. Avevo cielo, sentite com'è corretta la dizione, non il cielo che sarebbe molto lombardo, no. Il cielo. Ma perché? Perché? Perché oggi stai a casa? Perché sto così così? Perché col cielo plumbeo? Perché col cielo plumbeo sei stato, vabbè, sei venuto in studio? In studio ed eufonica, tra l'altro, protesica. Qui la sappiamo la dizione, la sappiamo, sì, non sì. La usiamo perché poi diventa stucchevole, ma conosciamo le regole base della dizione della lingua italiana. Però, caro Leonardo, adesso abbiamo un'avvocata del foro di Santa Maria Capua Vetere che abbiamo chiamato perché ci deve aiutare a capire se questa sia una butade, quella che ha fatto, oppure una cosa molto seria. Avvocato Carmen Posillipo, buongiorno e grazie buongiorno di essere a tutti, qui. Salve. Allora, abbiamo letto sui giornali che lei, come regalo di nozze a una sua praticante in ufficio, Sergio ha donato un buono divorzio. Ma come un buono divorzio? Una separazione, un, sì. Buono un buono per la separazione. Ma che? Ma è cosa? Scusi, adesso, va è bene. Una provocazione vera e propria, però in realtà l'ha avuto davvero il buono. Sì, il fatto, sì, certo, che io ho uno studio che mi occupo del diritto di famiglia, Francesca, la sposa, ha fatto pratica presso il mio studio e ahimè tutte le mie praticanti si sono sempre separate. Non è assolutamente colpa dello studio. Però, ecco, no, una domanda forse se la deve porre però questa cosa, perché tutte le sue praticanti si sono separate. E quante, forse, quante ore le tiene lì? Sono tutte diritti, quindi lei, quindi lei così ha detto, guarda, se mai ti dovessi separare, cosa vuol dire il buono? In realtà, allora, se mai ti dovessi separare nei primi 3 anni del matrimonio, sappi che avrai una separazione consensuale regalata. Regalata. Nel caso in cui questo matrimonio durerà di più dei 3 anni, io tramuterò questo buono per la separazione in un buono economico. Ovviamente, perché non sarebbe stato giusto, altrimenti non avrei fatto alcun regalo. Eh certo, certo, quindi se resiste 3 anni poi si tramuterà in un regalo economico. Anche perché la speranza è che loro non si separino. Beh, guardi, ricordiamo a questo proposito il motto che Leonardo Manera porta avanti qui da sempre. Non più, ma insomma una volta dicevo l'amore finisce sempre comunque, però è interessante il termine di 3 anni. Perché dopo tre anni... Possiamo anche aggiungere a questo punto finché bonus non ci separi. L'amore finché bonus sempre... non ci separi, sì, sì, sì, chiaro. Sì. In realtà perché i primi 3 anni sono quelli più difficili, perché ormai si ci sposa da adulti, ognuno ha le proprie abitudini e quindi è più semplice ritornare allo stato quo ante e desistere piuttosto che trovare una soluzione e scendere a compromessi. Guardi, lei ha detto un'espressione che mi piace molto, invece di sentirsi dire non ti amo più, è più bello dire guarda torniamo allo stato quo ante, è meno mortificante. Effettivamente non è male. Senti, ma guarda, torniamo allo stato quo ante. Addirittura non comprenderlo, quindi è ancora più divertente. Ma meglio ancora, torniamo allo stato quo ante. Immagino quelle scuse, sai. No, mamma, non ci siamo separati, siamo tornati nello stato quo ante. Esatto, esatto. Che ma... è uno stato di grazia, perché sì, quello di stare a casa con le mamme. Ma lei, avvocato, adesso non ci crede perché ha visto che tutte le sue praticanti nello studio sono finite poi a separarsi, o non ci però crede? Però io sono sposata. Ah, esatto. Quindi da quando? Facciamo questo mito. Da 3 anni e mezzo. Quindi da 3 anni e mezzo? Anche 3 anni. Stupendo. Però mi sono sposata da adulta, 40 anni, con sapevo che mia scelta, ho anche un bimbo di 3 anni. Vabbè, ma signora non deve disperare, potrebbe separarsi anche lei, ce la farà anche lei. No. E non pagherò l'avvocato. E non pagherà l'avvocato. Per lei sarà facile. No, ma vorrei capire se lei ne ha fatto una questione di statistica, cioè 100% delle sue praticanti si sono separate, quindi succederà anche a Francesca, mi pare che si chiami, se ho capito bene. Sì, no. O se invece è proprio il suo lavoro che la fa essere un po' disillusa sul matrimonio. E il contrario, diciamo, era un invito a non demordere, e con la provocazione a volte si ottiene di più che con, sai, le ramandine o quei moniti che si fanno alle persone, perché io sono quasi una sorella maggiore per Francesca, perché essendo stata il suo dominus, ad oggi lei è una collega, fortunatamente è stata abilitata e tutto, volevo dirle, Francesca, spero di non dover fare pure la tua separazione, anche perché poi detto tra noi, un dominus non percepisce mai una parcella del proprio praticante, quindi voglio dire, certo, non avrebbe senso. Sì, in realtà è un incoraggiamento, dai, è un incoraggiamento. Tieni duro per almeno questi 3 anni. Tant'è che il marito mi ha detto, ma vale anche per me? Ho detto, certo. Ma certo, è bello, giusto, vale anche per me. Lei nella sua esperienza vede più separazioni serene o separazioni con rancore, rabbia? Purtroppo sono molto contenziose e molto animate le separazioni, molto, perché io credo che in Italia debba essere introdotta quanto prima i patti prematrimoniali. Che ci sono in gran parte dell'Europa, se non sbaglio. Sì. Perché in realtà poi è questo il motivo del contendere, il quanto, il come, il perché. E quindi si litiga per tempo e per anni, quando poi in realtà gli importi non possono discostarsi molto da quelle che sono le possibilità economiche. Sì. Quindi con una pattuizione precedente, priore, voglio dire, sarebbe semplice. E perché, dal suo punto di vista, perché c'è questo, non si vogliono introdurre in Italia i patti prematrimoniali? Perché c'è questa resistenza? Nasce anche dal diritto canonico, cioè noi siamo un po' più conservatori sotto questo punto di vista. Sì, non siamo anglosassoni. Non, ecco, siamo ancora pronti, non siamo ancora pronti. Senta, ma però invece... addirittura facendo, ma poi non trovano una situazione diretta nel diritto civile, ma comunque creano un precedente anche nella convinzione del giudice che si troverà a fare il provvedimento, perché ovviamente se tu avevi accettato e compromesso quegli importi potresti sostenerli, e quindi comunque un libero convincimento da parte del giudice viene suggerito anche da questi patti, che però non hanno un valore legale ma soltanto un probatorio. Conferma che gli animali nel senso gatti, cani soprattutto, sono che sempre, non si separano. Sono sempre più sono sempre più, come dire, anche utilizzati, oggetto di contesa. Sì, anzi, paradossalmente io ne ho fatta una che c'era un cane appunto conteso, dove un cane di 8 anni, una coppia che aveva provato da tanto ad avere dei figli, non era riuscito, quindi aveva riversato questo amore sul cane. E la cosa più difficile è che a volte dopo i 12 anni tu puoi chiedere l'audizione del minore, per cui l'ascolti. Nel cane è un po' più difficile chiedere, facciamo scegliere il cane, e lì è veramente difficile assumere la decisione più giusta, per cui si opta quasi sempre per una sorta di affido condiviso, diciamo. Condiviso. Effettivamente, come fai a chiedere a un cane? Vuoi stare con. Devi avvicinarlo a entrambi i coniugi e vedere vicino a chi scodinzola di più. Sì, esatto. Sì, tu ti nascondi delle crocchette nella. Ma loro si fanno forviare a volte, ecco, qualche altra cosa che poi potrebbe essere una volontà. Vabbè, avvocato Carmen Posillipo, noi nel ringraziarla prendiamo appuntamento, se mai ci saremo a fare questa trasmissione, tra 3 anni, così vorremmo parlare, vorremmo capire. Concordare la vostra separazione con me. No, vabbè, noi non siamo una coppia di fatto, però insomma siamo. Fatti e condizioni, allora. Va bene. Intanto noi la ringraziamo per la simpatia, per essere stata con noi, per averci raccontato questa storia. Oh, ragazzi, si può succedere anche questo. Avvocato Carmen Posillipo, visto che in studio suo sono tutte le praticanti, sono separate, ha donato un buono divorzio alla propria praticante. 3 anni, ti ricordi che io sostenevo i 3 anni come limite, ma adesso velocemente ricordo perché. Perché quando ci si innamora viene stimolata l'amigdala, che è la parte del cervello che presiede alle emozioni, e invece viene disattivata la parte della corteccia cerebrale, che è quella più razionale. Poi nell'arco dei 3 anni l'amigdala perde un po' questa potenza che ha inizialmente e la corteccia riprende il suo ruolo, quindi tu cominci a vedere l'altra persona per com'è realmente e non per com'era secondo le tue emozioni, e quando vedi la persona per com'è veramente hai costruito. Ma era fantastico. Vabbè, ragazzi, è il momento della scienza. Sappiamo che quest'anno gli è presa così. Ogni anno, ogni giorno deve darci una perla di cultura. Quindi con l'amigdala viene stimolata la produzione di ossitocina e dopamina, che sono gli ormoni dell'amore, ma poi nell'arco di 3 anni di solito vengono meno e tu cominci a vedere l'altra persona con i suoi difetti e reali. E se una ha l'amigdala che funziona tanto per 6 anni, 3 anni, no. Il massimo dell'amigdala, e dopo 3 anni l'amigdala prendila, cambiala. Sì, vieni come drogato da ossitocina e dopamina attraverso la funzione dell'amigdala che presiede alle emozioni. E dopodiché l'amigdala ti dice torna allo stato quo ante. Quo ante, esatto. È la corteccia che te lo dice. La corteccia cerebrale dice torna allo stato quo ante. Va bene, dopo questo momento di cultura, direi potevi mandare anche la cosa di Piero Angela qui, i Quark, insomma, la mitica storia. Io sono un tuttologo così, invece che invitare gli ospiti. Sbagli tutto. Cioè dici invece robe che a caso su tutto. No, non è vero, non è a caso, perché su questo insieme ad altri comici fece anche uno spettacolo che si chiamava Il Neurone Innamorato e avevamo studiato profondamente tutta la questione. Capito? O uno segue Quark, appunto, gli Angela, oppure va a vedere lo spettacolo comico di Il Neurone Innamorato, c'ero io, Diego Parasole, Claudio Batta, Max Piso, Stefania Pepe, Roberta Petrozzi e così via. Va bene, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, dopo Boateng, il prossimo anno Milan Monza allo stadio! Ma in 2000 persone, ovviamente. Ecco, bravi, parliamo di scuole aperte, ma non di scuole che funzionano, perché sono solo aperte. Punto. Ascolta Radio Milan. Radio Milan. Boris Johnson ha detto una cazzata, ha fatto bene Materazzi a rispondere, punto. Vabbè, basta. appunto, quindi perché ne abbiamo parlato a lungo? Ma siamo inutili, questa è la verità. Boris Johnson ha sbagliato, Mattarella ha detto una cosa giusta, punto, no? Vedi, i nostri ascoltatori, altro che Leo risolve facile, questo ascoltatore, non so, si chiamerà Giorgio, Antonio, risolve proprio pam pam pam. Potremmo fare una rubrica che si chiama proprio Risolvi Facile, invece che dove gli ascoltatori danno delle soluzioni rapide, facile, per qualsiasi problema. Rapide, lo citano, dicono qual è il problema e la loro soluzione rapida. Comunque, in 30 secondi. Qua, Manera, anche neurologo, adesso non esageriamo, e infatti arrivano subito le precisazioni. L'amigdala funziona da stimolatore, ma non è lei che produce direttamente gli ormoni. Certo, infatti non ho detto quello, ho detto che l'amigdala è la parte del cervello che presiede, che ho detto che è la parte che presiede alle emozioni, l'amigdala. Ma dove hai studiato tu? Quando abbiamo fatto questo spettacolo. E neurologia. Quando, allora, è la parte del cervello che presiede alle emozioni. È vero, l'amigdala. È vero. Non ha detto che produce gli ormoni. A me purtroppo l'amigdala ha funzionato 22 anni, l'ascoltatore. Però dice, si vede che non ha la corteccia cerebrale che funziona no, bene. No, no. O forse ha un'amigdala predominante. Sì. Ragazzi, ieri siamo partiti così e poi abbiamo parlato per un'ora e mezza di vignette. Vignette nel senso che poi di secondo la dizione sarebbe vignette. Vignette. Non vorrei adesso arrivare fino alle 11 parlando di amigdala, che ci chiamano i neurologi, ci chiamano i professori. Potremmo anche fare questa cosa. Oggi, cioè, voi ci date una parola. Ieri vignetta nel senso della bollino dell'autostrada svizzera. E tra l'altro c'è scritto uno da Vibo Valentia dicendo: io sono di Vibo Valentia, come ieri hai detto, e effettivamente non andrò mai in Svizzera. E oggi per ora abbiamo parlato già troppo e troppo lungamente di amigdala. Se vuoi fare una sfida a Luchetti e trovare un esperto di amigdala, un libro sull'amigdala e trovare qualcuno, potremmo fare così. Ogni giorno lanciamo una parola e poi così, con una sorta di teatro improvvisato. Se noi fossimo una trasmissione culturalmente seria, riconosciuta, questo sì, verrebbe visto come un gran momento di cultura e di divulgazione. Siccome non abbiamo tempo fino alle 11 per approfondire, dare due o tre questioni in più. Guarda sull'amigdala. Certo. Amigdala. Cos'è? Dov'è bene l'amigdala? Diamo dei dettagli. Intanto tu parla. Oggi che... oggi faccio un saggio. Il saggio in che senso? Un saggio. Uno di quelli che potrebbero essere pubblicati su Micromega sì, o su Limes. Vabbè. Ma vola basso, comincia a farlo, comincia a dire qualcosa, poi vedremo. Anche allora, questo è un saggio vero. Dunque, o su Diabolic. Il saggio di oggi si intitola Diego Armando Maradona e la democrazia. Perché ieri abbiamo avuto Franco Cardini che parlava di democrazia, no? Come sì, di un certo, sistema un po' in difficoltà. Ti vuoi mettere allo stesso piano di sì, Franco sì, Cardini? Va bene, oh, fai tu. Allora, Diego Armando Maradona e la democrazia. Cercherò di dimostrare in modo inequivocabile le connessioni tra la vita di Diego Armando Maradona e la democrazia. Allora, partiamo dal presupposto che la democrazia è probabilmente il migliore dei sistemi possibili per il governo di un paese. Come? Diego Armando Maradona è stato il miglior giocatore di calcio al mondo, insieme forse al solo Pelé e a me quando giocavo bene. È successo che Diego ha fatto vincere titoli al Napoli e anche i mondiali di calcio del Messico nel 1986, nel periodo in cui si allenava di più, si teneva in forma e quindi poteva rendere al meglio. Così, analogamente, la democrazia può rendere al meglio quando viene allenata. Cosa significa per una democrazia essere allenata? Significa non solo correre al voto ogni tot o ascoltare le parole dell'allenatore, cioè dei candidati. Essere allenata per una democrazia significa avere una rete sociale sul territorio, essere organizzati non solo con i vecchi sindacati, ma anche con tutte le cosiddette parti sociali che possono interagire con chi è preposto a governare. Associazioni, circoli, circolini dove si discute per ore bevendo bianchini. Insomma, per una democrazia essere allenata significa essere presente non solo al momento del voto, che per un calciatore sarebbe come giocare solo a partita della domenica, ma avere sul territorio un rapporto continuativo col potere per mezzo degli strumenti delegati a farlo. Poi però Maradona ha cominciato a calare col rendimento, allenandosi poco, ingrassato troppo, e inevitabilmente sul campo ha cominciato a rendere meno, diventando nel frattempo sempre più nervoso, irruente, polemico. Così la democrazia che si allena meno, che ha meno rapporti col territorio, punta tutto sulle polemiche nei talk show televisivi, che diventano sempre più numerosi, invadono tutte le TV e il volume della voce si alza in modo insopportabile, tanto che viene voglia di cambiare canale e guardare qualsiasi cosa ci sia dall'altra parte, anche una replica di Walker Texas Ranger o della Signora in Giallo. rimane la partita della domenica, scusate, le elezioni. Ma più che un esercizio sereno della democrazia dove si va per vedere il bel gioco, si va divisi per fazioni e con la rabbia di certi ultras che più che per vedere la partita vanno allo stadio per sfogare tutte le frustrazioni. Finché poi a un certo punto della carriera Diego Armando Maradona ha anche cominciato a fare uso di droghe e da lì in avanti c'è stato il tracollo e la fine della prestigiosa carriera. E il rischio c'è anche per la democrazia, il rischio di avere una democrazia dopata, drogata. La democrazia drogata è quella che senza più comunicazione col territorio, senza strumenti reali a disposizione, si rivolge solo ai pancioni di noi italiani, dandoci delle visioni, dandoci l'impressione di poter decidere tutto con una specie di democrazia diretta, quando poi in fondo non possiamo decidere niente, come già è successo in passato con alcuni referendum che poi, alla prova dei fatti, sono stati completamente disattesi. E quindi si può concludere con questo mio saggio intitolato Diego Armando Maradona e la democrazia, che un calciatore è proprio come la democrazia. Funziona bene quando ha una buona base di partenza, si allena e non fa uso di stupefacenti di qualsiasi tipo essi siano. Altrimenti poi si vive solo di ricordi, a ricordare i bei gol di Jader Jacobelli, anzi, scusate, di Diego Armando Maradona. Allora ci scrivono Milan e Manera, bravissimi, parlate solo per Manera, bravissimo, colto anche, esperto, tra l'altro ho scritto al mio amico neurochirurgo, giuro al mio amico neurochirurgo, adesso gli ho scritto, Andrea, non dico il cognome, lo dico solo se riesce a intervenire, magari lo sto chiamando in sala operatoria, stiamo parlando in onda dell'amigdala, sì. Puoi intervenire tra il serio e il faceto, gli ho scritto, se no mi viene a fare un trattato sull'amigdala, questa amigdala, sfida Luchetti, abbiamo qualcosa da aggiungere su questa amigdala? Quanto è grande? Dove... esplorare la parte intermedia del cervello dove nascono le reazioni emotive. È questa parte che si eccita quando ci emozioniamo per una qualunque ragione, per amore, per rabbia, per gelosia, per paura. Si chiama? Oppure perché ci divertiamo, ridiamo, oppure quando amiamo. Ma manca... dopo una lunga introduzione si citava l'amigdala, il mitico Piero Angela arrivava l'amigdala, non lo so, vi lasciamo con questo dubbio, parleremo oltre che di altro anche di amigdala dalle 10 alle 11 nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000, chi lo sa. Allora chef, in frigo è rimasto un cavolfiore, un uovo e un limone, sono disperato. E che problema c'è? Possiamo fare una vellutata di cavolfiore, uova arancioni, profumo di limone. Aspetta, ci sono anche, ho trovato il pecorino. Cioè pecorino e poi vabbè, le fave e il riso, che facciamo? Come li assembliamo? Qui potremmo fare una crema di fave, salsa di pecorino con un goccio di latte e riso mantecato. Ma quante ne sai, Oldani? Ma li conosci tutti questi ingredienti? Tutti? Eh sì, e anche gli ascoltatori li conosceranno e anche quanto costano, perché è molto importante il costo. È molto importante, il portafoglio conta, però ti prego non risparmiamo sulle porzioni, che poi viene tristezza, porzioni abbondanti. Il giusto, Pier, il giusto. Mangia come parli, il cooking show radiofonico di Davide Oldani e Pierluigi Pardo, il sabato alle 11 e la domenica alle 20, su Radio 24. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, ma a questo punto a cosa serve sposarsi? Se devi fare un contratto, un patto perché ognuno poi ritorni nei propri passi e nelle proprie disponibilità. Meglio non sposarsi e stare insieme accompagnati. Manera oggi c'è, non piove. Eh sì, tocca a noi Paolo lì in regia. La seconda ora di Uno Nessuno 100.000, signori, è tutto vero. Ieri siamo partiti a introdurre la vignetta per le autostrade svizzere e abbiamo parlato un'ora e mezza, poi la gente non voleva sapere di altro. Oggi Leonardo ha introdotto questo concetto dell'amigdala, cioè su questo concetto ha parlato dell'amigdala. Sono un divulgatore, mi ritengo un divulgatore come Piero Angela o sì, Alberto. Beh, adesso, sì, adesso. Posso dare del tuo a Piero Angela? Sì, un po' meno. Ma scusa, riepiloga un po' per gli ascoltatori. Hai fatto uno spettacolo sulla Mingdala, vediamo un po'. Sì. Quando ci si innamora viene stimolata l'amigdala, che è la parte del cervello che presiede alle emozioni, mentre invece viene parzialmente disattivata la corteccia cerebrale, che è la parte razionale del nostro cervello. Cerebrale. Come proprio i milanesi. Quindi inizialmente non si vede più l'altra persona per quello che è, ma la si vede come se si fosse drogati dall'amigdala. Quindi poco alla volta però la corteccia cerebrale riprende il suo ruolo. Stai spacciando l'amigdala come una nell'arco di 3 anni, al massimo la media va dai 3 ai 12 mesi, ma al massimo sono 3 anni, la corteccia riprende il suo ruolo e ricomincia a vedere l'altra persona per com'è veramente. A quel punto inevitabilmente ci si lascia. Quindi tu sai tutto dell'amigdala? Cioè... No, tutto, so che è la parte che presiede alle emozioni. Ti potresti definire un esperto di amigdala. Sì, questo è vero, è inutile negarlo. Va bene. Allora io, come promesso, voglio verificarlo. Ho chiamato un mio caro amico, è un neurochirurgo, un ricercatore. Hai detto neurochirurgo, ti faccio notare, visto che tu fai le pulci a me. Hai detto neurochirurgo, si dice neuro, sì. Hai detto neurochirurgo. Vabbè, mi sarà un po'... E non è un chirurgo di colore, ma neurochirurgo. È un neurochirurgo. Viene a fare le pulci a me, poi lui è il primo che sbaglia. All'ospedale. Siamo a questo punto. Vabbè, al Galeazzi di Milano, Marco Riva. Buongiorno Marco, eccoci qua. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, il nostro Leo si ritiene un esperto di amigdala. Vuoi darci 2 nozioni molto così sull'amigdala vere da parte della scienza? La scienza? La scienza, non mi personifico nella scienza in quello che so. L'amigdala ce ne abbiamo 2, tra l'altro, secolari. Sono un nucleo molto importante ma misterioso ancora del nostro cervello, del nostro encefalo, in una parte anche profonda vicino al tronco cerebrale. E fa una... Quindi una delle parti più arcaiche del nostro cervello, possiamo dire. Assolutamente sì. E Manera sì. Viene qui a dire che lui sa tutto dell'amigdala, no, così un venerdì qualunque. Sentiamo. Prego, Marco Riva, la scienza. Ha ragione Leonardo perché... Aspetti, possiamo isolare questa frase? Ha ragione Leonardo, può ripeterla che la isoliamo e la conserviamo? Ok, su questa funzione anche arcaica delle emozioni. Se posso, l'unica cosa permettermi Leonardo, non è che... stacca la corteccia cerebrale quando funziona, ma arriva prima, nel senso che riceve spesso molti degli stimoli sensoriali che noi riceviamo dal mondo, dove per mondo esterno intendo tutto ciò che non ci appartiene, e li analizza un attimo prima della corteccia. Ah, è veloce, che però rimane è veloce. Molto più veloce perché è uno dei primi circuiti che si sono formati anche durante l'evoluzione delle varie specie animali. Beh, e fa parte di quel sistema limbico che anche Leonardo prima accennava e conosce, che ha descritto, certo. Che è prevalentemente coinvolto in tutti quegli aspetti di emozioni, anche se non vogliamo ricadere nell'errore di separare emozioni da raziocinio. Comunque però qui... è stupendo, cioè Marco Riva che ha studiato quanti anni? Cioè praticamente si mette al livello di Manera. Quanti anni hai studiato, Marco, per... Se considero solo l'università e specializzazione, 13. 13, e continua a studiare, a ricercare, e dice che Leonardo... Possiamo ragione, interagire. C'è un simposio. Beh, uno vale uno. Questo lo dice lei. Sì, quello però è un altro discorso, io lì non mi ci metto. Vabbè, quindi... No, comunque sicuramente l'amigdala è implicata quando anche c'è l'innamoramento. Di sicuro, nell'innamoramento, ma più che altro anche nelle emozioni di paura, di analisi della paura, di segnali di pericolo. Questo non voglio dire che l'amore può essere un segnale di pericolo, però in tutto con un aspetto emotivo di interazione quasi immediato con l'ambiente esterno. Stupendo. E comunque sono 2, questo non ce l'aveva detto. Esatto. Qua Potremmo chiedere a Leonardo perché l'amigdala l'hanno chiamata così. Ecco, dai, facciamogli un esame, visto che lui sa tutto. Perché l'hanno chiamata così? Io lo so, per esempio. Se non lo so, c'ho un amico. Deriva da sicuramente Marco dal greco. Deriva sicuramente. Assolutamente. E io mi fermerei qui per non dare troppo sfoggio di conoscenza, perché sarebbe brutto umiliare poi gli ascoltatori. Deriva dal greco. Sentiamo la scienza, perché si chiama così? Ha ragione Leonardo, così si può isolare. Deriva dal greco, significa mandorla, perché la forma anatomica che ha ricordava ai primi anatomisti che hanno studiato proprio una mandorla, 2 di fianco, nel nostro lobo temporale. Stupendo, stupendo. Questa cosa ovviamente Leonardo non la sapeva, adesso è qui che stava, è comparsa anche una gocciolina di sudore sulla tempia di Leonardo Manera in questo momento. Quanto diamo come esame al Piero Angela De Noantri, caro Marco Riva? Ma direi che è stato molto bravo, almeno 28 se lo merita. Almeno 28, signore. Va bene, un grande abbraccio Marco, grazie davvero. Un'ultima domanda. Attenzione, adesso fa. No, anche perché adesso devo vedere se io sono preparato. Esatto, vediamo. Quando l'innamoramento si trasforma in amore, cioè un rapporto più consolidato. Ma è un neurochirurgo, non è uno psicologo. Sì, no, ma chiedevo se poco alla volta la funzione dell'amigdala viene meno. Ma così lei vuol ridurre l'amore a una mera funzione cerebrale? Non togliamo tutta la poesia che l'amore ha. Ragazzi, è un neurochirurgo ma anche un po' psicologo, il nostro Marco Riva. Grazie, un grande abbraccio a Marco Riva, neurochirurgo, ricercatore alla Statale di Milano, mio amico, adesso è al Galeazzi di Milano, ogni tanto io... Ha ragione Leonardo. Ecco, questa la rimandiamo in loop? Ha ragione Leonardo. Andiamo anche in abbinata con Leonardo Fantastico, Manera Fantastico. Sì, va bene. Adesso le teniamo tutte, quelle tre o quattro che arrivano in un anno, e cerchiamo di fare un collage. Manera Fantastico. E poi ha ragione Leonardo, sì, rimandala subito. Ha ragione Leonardo. Sì, la tua autostima è bassissima comunque. Sì. Ha un'autostima ormai altro che sotto i tacchi. Ho bisogno di queste cose per vivere quotidianamente in modo decente. Ha bisogno di questo, va bene. Signori, niente, abbiamo chiarito tutto. Da questo momento in poi alle 10.15 dell'amigdala non ne sentiremo più parlare. Qui almeno su Radio 24, va bene? Chiudiamo per oggi. Chiudiamo con il traffico. Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it vi presenta... Uno, nessuno, 100 Milan. Ciao Milan, guarda che Manera è un marpione. Quando non sa cosa dire, si inventa qualche parolone e così tira avanti la trasmissione. Amigdala è una con cui uscivo io tanti anni fa. Vabbè, adesso non esageriamo. Buongiorno a tutti. Leonardo Carbone Manera, effettivamente abbiamo anche... Vuoi sottrarre il lavoro a Nicoletta Carbone? Anche sì, adesso dopo Alessandra Tedesco punti. Alessandra Tedesco ormai è stabilito che dal prossimo anno non farà più il cacciatore di libri, quindi lo farò io al suo posto. Poi c'è anche Franco D'Assisti, la rosa purpurea, che è insomma sul filo. Sei sul filo, Franco. No, però effettivamente... Franco, attento che sei sul filo, sto per arrivare io. E poi Nicoletta Carbone a questo punto. Nicoletta, devo ancora un po'... Chiederò a mio fratello qualche informazione in più, mio fratello medico, poi potrò sostituire anche Nicoletta Carbone. Va bene, e quindi praticamente il palinsesto lo fai... Attento, Franco, che sei sul filo. Alle 10:18 minuti siamo qui in diretta, uno nessuno 100.000, cari ascoltatori... C'è Stefano che ci chiama dalla provincia di Roma. Buongiorno Stefano, eccoci. Buongiorno Milan, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì. Allora, è anche un saluto particolare a Manera. Buongiorno. Che è uno dei miei preferiti. Allora, dunque, no, rapidamente, perché poi alla fine andiamo a sottolineare una situazione che è sotto gli occhi di tutti. Insomma, basta fare un attimino l'osservazione. Cioè, io... sono contento che il nostro presidente abbia tenuto la schiena dritta, però insomma quando si fanno certe affermazioni poi si rischia insomma di far sorridere, no, a centinaia di milioni di persone, perché andare ad affermare che noi amiamo la libertà e la serietà, cioè diciamo quando siamo famosi in Italia, cioè siamo un popolo libero noi, ma se noi fino all'altro giorno, fino ad oggi stiamo subendo ingerenze continue, abbiamo subito le ingerenze in politica estera degli americani, insomma siamo stati sempre una colonia americana, subiamo ingerenze di un altro stato straniero che è il Vaticano, che ancora oggi fa una campagna contro l'interruzione di gravidanza, contro il fine vita. Per questo per lei non siamo cittadini liberi. Mi faccia parlare, mi sento molto libero però. Lei è libero di pensare qui, appunto, è libero di pensare. Però io sto dicendo questo: noi per tante cose non siamo assolutamente liberi. in Italia. Abbiamo una situazione mediatica che è famosa, cioè stiamo al 53° posto. Guardi, io Stefano, a quelle classifiche glielo dico, Milan, non Alessandro, credo, non credo. Abbia pazienza, però mi devi far finire là, perché io stiamo interloquendo, cioè non è che... No, ma lei però mi deve far finire il concetto, poi mi risponde, perché se tutte le volte lei che io prova si finisca, qualcosa, va bene, finisca il concetto, sopra, finisca il concetto. E mi sta dimostrando che io non sono libero di partecipare alla discussione, insomma. Quindi le volevo dire questo, e anche serietà, per caso serietà, e avere un'evasione fiscale mostruosa, una disoccupazione giovanile importante, una connivenza con le mafie che è stata dimostrata in processi, no? E via di scuola. Questo sarebbe serietà di uno Stato, ma per cortesia, cioè... Vabbè. Io la vedo così, cioè io non mi sento di vivere in uno Stato libero dal punto di vista della democrazia civica e nemmeno serio, perché altrimenti non staremmo in questa condizione. Va bene, Stefano, ha finito, posso considerare concluso il suo concetto, l'ha espresso? Benissimo, io mi sento invece in uno Stato estremamente libero, non credo a queste classifiche sulla libertà di stampa, nel senso che se uno va in edicola, giusto per parlare di stampa, trova 20-25 quotidiani da destra a sinistra, può prendere liberamente, ognuno in Italia può scrivere quello che desidera, se lei vuole scrivere contro il Vaticano può scrivere contro il Vaticano, se vuole scrivere contro l'America può scrivere contro l'America, e nessuno le viene a citofonare, a imprigionarla, a impedirle di scrivere quello che... Per me questa è la limitazione della libertà, è il fascismo, è quando è il comunismo che non potevi dire se non la verità di regime, questo significa. Se poi lei mi dice che ci sono le pressioni dell'America, le pressioni del Vaticano, per carità, ma perché in Inghilterra non hanno i criminali, non hanno le criminalità organizzate, ce le avranno anche loro, cioè no. Non per questo non siamo liberi, non so, tu ti senti libero di vivere libero, Leonardo? No, no. Io così per la verità. Che cosa secondo te non c'è libertà in Italia? Ma un po' in tutto, io stesso quando vengo qui la mattina, sì, prima c'è Paolo Corleone che mi dice non parliamo di questo, di quello, dell'altro, dai, che si offende uno, l'altro e l'altro ancora. Ma lui la butta in burla, poi la gente non ci la sta crede. Buttando in burla, la qui gente ci sono una serie di prescrizioni alle quali bisogna attenersi dicendo? In modo rigido. Sì. E quindi, certo, mica viene a bestemmiare in onda, per esempio. Bisogna anche dire che il presidente Mattarella comunque deve essere sempre istituzionale nelle sue dichiarazioni, sì, quindi è normale che faccia questo tipo invece, di dichiarazioni. No, seguo Stefano, quindi per dire... Seguo invece Stefano quando dice che siamo un popolo serio. Mattarella giustamente deve difendere l'Italia. Ecco, gli italiani non sono certamente rinomati al mondo per la caratteristica della serietà. Siamo un po', insomma, vediamo il caso Suarez, giusto? Perché siamo un po' anche quelli lì. Quindi dicevo ieri, siamo servi della gleba coi famosi e ricchi. Insomma, quindi amiamo la libertà, siamo secondo me liberi, l'abbiamo conquistata. Certo, la libertà estrema non c'è mai, non vorrei abusare della classica frase che c'è anche la libertà degli altri da rispettare. Sulla serietà effettivamente non è che, come dire, abbiamo questa nomea nel mondo di essere il popolo più serio quando facciamo le trattative, quando dobbiamo rispettare alcune regole, quando dobbiamo... Mi faccia terminare il mio pensiero, abbandono lo studio. Allora, se lei vuole interloquire con me mi faccia parlare, altrimenti abbandono lo studio. Ecco, lo abbandoni. Siamo a questo, cioè ci chiede un ascoltatore il brano in sottofondo al rientro al traffico. Sfida Lucchetti, Bonnie Tyler, holding out for a hero. Cioè, capito? Cioè, non gli interessa mica gli argomenti di cui parliamo, vuole sapere. Ma infatti holding out for a hero. Dovrebbe trasformarsi in una radio musicale questa, sì, io credo. Cioè, basta con queste parole, rimaniamo con questa a Roma, ipertrofia verbale. Basta Roma con l'ipertrofia verbale, diamo spazio alla musica. Mauro da Roma, buongiorno. Buongiorno, eccoci. Devo dire subito che mi sento un po' spiazzato a questo punto, perché la polemica ha preso dei twist, perché? Che è un po' diverso da quello di cui pensavo di parlare. Comunque, il mio argomento era un po' più aderente alla questione Boris Johnson, semplicemente l'affermazione del nostro presidente. Io credo che il presidente abbia fatto benissimo a dire quello che ha detto, perché intendeva dire una cosa che condivido, che gli italiani di fronte alle cose serie sono seri, cioè quando devono tirar fuori le capacità, perché la cosa è evidente ed è importante, gli italiani si comportano bene, questo è quello che penso, sì, voleva dire. Come però... diceva Severnini, cioè siamo seri anche se lo ammettiamo malvolentieri, quasi ci sembra che ammetterlo sì, sia una dote negativa, invece siamo sì, seri, sappiamo essere seri. Prego. Come voi avete detto, credo a questo punto, circa tre quarti d'ora fa, un'ora fa, In effetti il popolo inglese, il britannico, piuttosto è noto nel mondo per la diligenza, e quindi la buttata di Boris Johnson più che altro dimostra la qualità del personaggio, perché io penso che noi, che molte persone hanno visto di recente il film Dunkirk, sì, e credo che quei ragazzi in fila sulla spiaggia ad aspettare di andare a bordo, dagli italiani non te lo proprio aspettare una fila così evitata. Vabbè, insomma, era anche la seconda guerra mondiale, cioè affondiamo un po' nel passato. Però lei dice, giustamente anch'io ho questa immagine, come tutti, dell'Inghilterra, dove se c'è una coda la si rispetta, dove se ci sono delle regole di comportamento civico le si rispetta. Quindi fa un po' sorridere sentire Boris Johnson a dire gli inglesi non sono abituati ad obbedire a delle norme, no? Anche a lei ha fatto sorridere questa... Sì, un mio amico è andato qualche tempo fa in Gran Bretagna ed è tornato, e ne ridevamo comunemente, dice, ma questi si mettono in fila pure per prendere l'autobus. Certo. Adesso che Boris Johnson se ne esca fuori in quel modo, ripeto, spinge meglio il personaggio e il fatto che gli inglesi purtroppo hanno votato quello che hanno votato per mandarlo al governo. Vabbè. Mentre questo... da questo punto di vista noi, il popolo italiano, il governo italiano hanno dimostrato di fronte a una cosa inusitata e veramente aggressiva e maligna, di essere stati molto più capaci di comportarsi correttamente. Però qui entrava in gioco anche la paura di avere dei danni fisici. Secondo me non si può solo considerare sulla base del Covid, insomma, perché qui entra in gioco anche la salute personale, quindi è anche un altro fattore. Ecco, qualcuno ieri, per esempio, ha fatto notare in Italia, ma giustamente, forse abbiamo questo atteggiamento verso la salute personale più spiccato rispetto a paesi nordici, ne abbiamo già affrontato di questo, cioè quando si tratta di salute, come dire, si scherza su tutto ma non sulla salute in tutto il mondo, ma in Italia forse in maniera ancora più importante. Quindi quando si è capito che c'era la salute in ballo, un po' la paura, un po' il rispetto delle regole, l'italiano si è messo così a soldatino e ha rispettato più che in Inghilterra, evidentemente. Va bene, Mauro, la ringraziamo per questo suo intervento. Leonardo, ti volevo lasciare prima della borsa con una notizia che è data dall'ANSA, quindi, insomma, l'ha riferita anche la BBC, quindi ne parlavo prima con Riccardo Poli e anche Riccardo Poli ha confermato, anche Riccardo ANSA, Poli ha confermato, BBC e Riccardo Poli e perfino Elisabetta Fusconi, quindi ha fatto il giro anche la Svizzera, tutti insomma ci sono. E Lorenzo Nespoli è un po' contrito in redazione. No, a cui tu dai la colpa di tutto. Comunque succede questo, ragazzi, è notizia: la polizia del Vietnam, quindi in Vietnam, hanno sequestrato 320.000 profilattici usati che stavano per essere venduti come nuovi a clienti ignari, ovviamente, cioè praticamente li recuperavano, li lavavano, li riarrotolavano. C'era anche una donna arrestata che veniva pagata 17 centesimi di dollaro per ogni chilo di merce che rimetteva. Quanto, sfida Lucchetti, quanti profilattici per un chilo? Sinceramente. E dopo aver messo, non so, penso centinaia di profilattici per fare un chilo usati, prendeva 17 centesimi di dollaro. E, vabbè. In questi casi siamo contenti di essere in Italia, no? Sì, certo, però no, venivano messi sul mercato, credo, sì, anche, no? Nel caso. Siamo contenti che non si verifichino cose così in Italia, ma credo, che, ipoteticamente. Ma che ne sai se non erano destinate anche per il mercato internazionale? Ma sto dicendo, non ci sono persone che vengono pagate 17 centesimi di euro per fare questi lavori. Immagino, magari poi Mauro Meazza ne sa qualcosa, non lo so. Lui dà anche meno, cioè 17 centesimi di dollaro. Cioè, a te colpisce di più il 17 centesimi di dollaro per chilo di profilattico usato riciclato o il fatto in sé, cioè che ci sia 320.000 profilattici? Ma no, la domanda che mi pongo è: da dove arrivano? Cioè, di solito uno li butta, no? E cosa fai? Poi dove li vai a recuperare? Vabbè, dai, allora, è il momento. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... 1, nessuno, 100 Milan. Dai ragazzi, questa storia dei preservativi, economia circolare, green economy, forza ragazzi, loro sono più avanti di noi, capito? Scusa Milan, ma che attività sospetta hai fatto nel tuo profilo Twitter, che è mezzo bloccato, per attività sospette? Da una notizia, che l'ascoltatore, vado subito a vedere attività sospette. Cosa ho fatto? Posso confermare? Non lo so, oggi ho fatto un tweet sulla legge elettorale, forse si è arrabbiato qualche parlamentare. Ma com'è la situazione legge elettorale? Verrà fatta? È stata rimandata la discussione? Vero, abbiamo limitato temporaneamente alcune funzioni del tuo account. Beh, è stupendo questa cosa. Avrei scritto i soliti insulti, i soliti tweet densi di rabbia, come è tuo solito, odiatore Milan. Devo scrivere che non sono un robot. Ma perché ho cambiato la password, forse quello. Boh, non lo so, non dovrei aver fatto niente di basta strano. Con questi tweet polemici che fai. Seleziona che posti quotidianamente tutte le immagini con un'auto. Mamma mia, queste robe, non sei un robot, questa è una moto. Ti ricordo che sei in trasmissione, non sei qui a fare i fatti tuoi su Twitter. Ormai viene qui così, no? Lo fa proprio con la mano sinistra la trasmissione. No. Allora, signore, le 10:38 minuti. Adesso abbiamo un personaggio, è diventato un personaggio da due giorni, Tiziano! Buongiorno Tiziano! Buongiorno Alessandro, buongiorno Leonardo! Allora, Tiziano, devo dire una cosa, intanto ho saputo che è sempre stato un nostro caro ascoltatore, giusto? Sì, quando andavo a lavoro a Pescara vi sentivo sempre sulla strada. Era un vostro ascoltatore, sì. Tiziano lo conoscete perché se avete visto in questi due giorni qualche telegiornale, soprannominato Cappellino Giallo, dopo aver perso il lavoro chiedeva l'elemosina agli incroci di Iesi, finché ha vinto con un gratta e vinci 300.000 euro lordi. Lordi. Ma perché anche sui gratta e vinci si pagano le tasse? Eh sì, 2,40 puliti, ragazzi. 2,40 puliti. Come va Tiziano? Comunque. Li accettiamo, voglio dire. Certo, li accetteremo anche noi, Tiziano. Lo so. Come è una tassa che vorrei... Dimmi. Come va? Cioè, improvvisamente questa notorietà. No, sto subissiamo delle telefonate, dei giornali, televisioni. Adesso sono con un fotografo professionista, fa un po' di po' al semaforo. E devo dire, io comunque ero abbastanza abituato lavorando in strada, voglio dire, no, a contatto col pubblico. Ma sono soprattutto soddisfatto per le tabaccaglie. E per quelli, per gli sponsor ufficiali, voglio dire, per loro è una bella pubblicità, anche per me, ma per loro un po' di più. E niente, la mia vita è, in poche parole, adesso faccio una vita normale, voglio dire, un caffè, un aperitivo. Stupendo. Una cena, le cose semplici della vita, via. Ci vuoi raccontare, Tiziano? Ieri ho sentito una tua dichiarazione a dire ho fatto una vita fino ai 40, dai 40 ai 60 ne ho fatto questa un'altra. Io la chiamo la mia quarta vita, quella dai 60 agli 80 anni, la quarta vita. Che effetto fa aver perso? Ci racconti come sei finito a chiedere l'elemosina, hai perso il lavoro? Ho perso il suo lavoro perché la fabbrica dove sono andato a lavorare, una grande fabbrica, tagliava il personale, essendo uno degli ultimi arrivati, ho preso un piccolo incentivo, si chiamava incentivi esodo incentivato, e ho provato con qualche piccola attività, non andava bene perché arrivava la crisi, e finché mi bastava i soldi sono andato avanti. Quando è finito i soldi sono ritornato a casa da mia madre, e per non pesare sulla pensione di mia madre mi sono inventato sto lavoro e facevo i miei 20 euro al giorno che mi permetteva di comprare sigarette, il caffè, le piccole cose, de sopravvive, via, per non pesare sulla pensione di mia madre. Sì. Mi sembra giusto. Perché insomma ci vuole anche, ricordo che tu hai detto il primo giorno è stata. Il primo giorno, guarda, io. Una vergogna, una vergogna. Devo dire che mi vergognavo veramente tantissimo. Guarda, al terzo lancio del cappello. Ero quasi intenzionato a smettere, e si apre un finestrino della macchina in terza, quarta posizione sulla fila al semaforo, e è arrivata la monetina, sto finestrino elettrico, e sto signore, me lo ricorderò sempre, che mi mette 5 euro nel cappello, e da lì ho detto cavoli, ma allora Allora funziona, e da lì ho preso il coraggio. Perché tu ai semafori che cosa fai? Allora, ho cominciato lanciando il cappello, facevo tipo un giocoliere, lanciavo un cappellino, quelli normali, i cappellini normali, un cappello giallo, lo tiravo in aria e poi lo riprendevo al volo. E era uno spettacolo che piaceva soprattutto ai bambini, andava pazzi per questo spettacolo. E cioè i bambini bussavano tra le spalle i genitori. Dagli soldi. Sì, darmi soldi. E poi dopo con la barba lunga e i capelli lunghi facevo qualche spettacolo natalizio e ero il Babbo Natale di tutti i bambini degli Esi, in poche parole. Adesso sì. Però è arrivato questo gratta e vinci così. Guarda, io di solito compravo sempre quello a un euro. Quel giorno, quella domenica 16 agosto, che ormai è stampata là, della mia nuova vita, ho comprato un grattino a un euro, un 7,5. Ho vinto 7 euro e ci ho pagato il grattino, ci ho preso un caffè e poi non l'ho preso in quel tabaccaio lì, in quel bar lì. Andavo a prendere in tempo da queste ragazze che era in ferie, che c'ha sta macchinetta con i grattini, ho deciso di andarlo a prendere lì. Cioè, perciò ero proprio destinato quei 5 euro che mi erano avanzati da prendere sto grattino più grosso, sì. E niente, c'era scritto sto 300.000. Se penserai che la notte del lunedì 17 agosto sono stato tutta la notte a guardare se sto numero ci diceva e se i soldi erano quelli, finché non sono arrivato alla Banca Intesa e mi ha confermato che il grattino era valido. Sì. Attenzione adesso, Tiziano, che tutti chiederanno soldi, no, tutti diranno... Guarda, tu li devi dare, tra l'altro, a tutti. Io già ho fatto i regalini più importanti alla persona che mi ha sempre sostenuto e sopportato soprattutto, e quelli erano doverosi, no? E poi basta. Sì, sono soldi tuoi, cioè non è che... E poi dopo io, siccome... Anche quando non c'avevo sto grattino passavo sempre a trovare i vecchi, perché sono stato un periodo pure alla Caritas, e provo a trovare tutti gli anni sotto le feste di Natale e sotto il periodo delle ferie estive, passo a trovare i vecchi compagni della Caritas, sono nuovi compagni, e gli porto le sigarette, il caffè e farò quei piccoli gesti che per le persone in difficoltà, veramente in difficoltà. Certo, no, e questo ti fa onore, no? Ma perché poi adesso, ovviamente, finita la notorietà in questi giorni, tutti diranno: ah, ma non hai 1000 euro, non hai 2000 euro, non hai 5000 euro. Quello purtroppo lì casca male. Io lo dico, per me c'è solo la mia mamma, tutto quello che gli servirà, perché sto a casa con mia madre, perciò è il minimo che posso fare, e le tre persone che mi ha sempre aiutato in questi 3 anni e mezzo che... Gli ho detto: guardate, qualsiasi cosa vi servirà, per voi ci sarò sempre. Perciò gli altri avvertiti, per gli altri non c'è tripa per gatti. Ma continuerai a lavorare al semaforo? No, questa è la terza settimana che ho smesso. Tutti mi diceva quando lavoravo: fra un po' vengo al semaforo con te, fra un po' fammi i turni. Però è la terza settimana, oggi è il terzo venerdì che non lavoro. Ma al semaforo non c'è nessuno, perché pare facile, ma non è facile. Via. So che domani offri una cena a chi ti ha aiutato e poi insomma si inizia la quarta. Sì, e poi la vita normale di una persona normale che si può permettere un caffè, un cappuccino. Cosa fai? Vuoi provare a iniziare un'attività nuova con quel denaro? No, guarda, adesso vi giuro, ragazzi. Allora, sono minimo alla 30ª attività proposta, da prima attività. Guarda, io voglio bene a tutti, ma io voglio arrivare alla pensione, come dico, voglio lo spettacolino in diretta. Voglio arrivare, mi manca 7 anni per andare in pensione, perché ho lavorato 35 anni in fabbrica. Io alla pensione ci voglio arrivare preparato, perché sono un professionista. E il giorno che mi dice che sono in pensione, ci devo arrivare preparato dopo 7 anni di preparazione. Com'è, ragazzi? Va bene? Va bene. In bocca al lupo, Tiziano, grazie, sei stato qui. Un saluto a tutti voi, a tutti gli ascoltatori, bene. Come dicevo sempre allo spettacolo, che Dio vi benedica tutti, ci benedica tutti, è un colpetto di fortuna. Va bene, grazie Tiziano, c'è stata un po' di fortuna. Adesso a quelli che dicono, che ci scrivono un paio, ci hanno scritto: incitate il gioco d'azzardo, dai, ma io non lo so, ma si vuole sempre veramente distruggere ogni minimo anche di poesia, abbiamo raccontato quello che stanno raccontando molti giornali per questa vicenda di una persona disoccupata che era finita a chiedere l'elemosina e ha avuto un colpo di fortuna e basta, cioè non stiamo incitando niente a fare niente di... Uff. Comunque oggi vado al casino. Ecco, dopo il traffico però. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, le 10:48 minuti, è bene concludere la settimana con del gran buon umore, del grande ottimismo, una voce vibrante di passione. È tornato con noi il clown Neronello. Il clown Neronello, l'amico dei bambini. Yup! Ah, buongiorno, cari bambini, cari adulti all'ascolto. Sono il clown Neronello. Il mio nome vero è Carlo Nero, ero un imprenditore, sì. Lei ricorda, prima di fare il clown. Nelle pompe funebri. Sì, nel settore delle pompe funebri. Poi il nostro settore è andato in crisi e quindi mi sono reinventato clown, il clown Neronello, l'amico dei bambini. Cosa fa con le mani? Perché le agita così? Sono i movimenti che faccio con le mie mani per intrattenere i bambini quando arrivo nelle case per fare il mio spettacolo. Infatti dopo il periodo di lockdown sono tornato a fare le feste direttamente nelle case dei bimbi. Appena arrivo dico: bambini, sono il clown Neronello, l'amico dei bambini. Con faccio... le mani così, che vado... Vabbè. E faccio subito un indovinello per far divertire i bimbi. Per esempio, bimbi, qual è l'animale che non usa mai il rasoio? Vediamo. È il Barbagianni. Bambini. Yup. Yappo. Yoppila. Va bene. Appena detto come questa battuta, uno di loro ha preso una moca da 12 tazze e ha iniziato a picchiarmela forte su una caviglia. Gli ho detto: bambino, maledetto cane, figlio del demonio, del demonio, vuoi fare una cosa divertente? Travestiti da statua, mettiti immobile in piazza e aspetta che passi uno stormo di piccioni che ti cagano addosso. Allora stava per succedere l'irreparabile quando è arrivata la madre e mi ha detto: Neronello, lascia stare i bimbi, spieghiamo insieme le nostre ali in camera mia. Io ho detto: yup. Ma ormai stava scadendo il mio tempo, i bimbi mi reclamavano, così sono sceso e ho raccontato una delle mie favole, le favole del clown Neronello. Grande. Ringraziamo Paolo Corleoni che con un certo tempismo ha fatto partire la base musicale. Bravo Paolo Corleoni, per una volta è presente a quello che succede in studio. C'era una volta in un regno lontano una principessa dai capelli dorati che si chiamava Paturnia. Di giorno e di notte e di giorno, Paturnia era in preda alle angosce per il suo amore Condor, un cavaliere valoroso che da anni ormai viveva imprigionato in una torre sotto l'incantesimo della terribile strega Melonia. Melonia infatti era innamorata di lui e aveva deciso di rapirlo perché era l'unico modo per tenerlo lontano dalla principessa Paturnia. Paturnia aveva provato in mille modi a liberare il suo cavaliere, ma a nulla erano serviti né i filtri magici né l'intervento dell'esercito. E così passava il suo tempo nella disperazione. Un pomeriggio, mentre piangeva in un angolo del giardino, arrivò Ortodonzio, il gran ciambellano del re. Principessa, piangi ancora per quel tizio muscoloso? Se vuoi posso chiamare uno spogliarellista per tirarti su il morale. Ortodonzio, ti prego, aiutami tu, libera il mio amore dalla terribile strega Melonia. Ortodonzio si mise a pensare, mentre con uno stuzzicadenti cercava di togliere un pezzo di grasso del salame rimasto incastrato nella sua dentatura complessa. Ok, ci penso io. In men che non si dica, ti restituirò il tuo principe. Erano passate solo poche ore quando la principessa sentì bussare alla porta del palazzo. Corse ad aprire con il cuore che batteva all'impazzata. Aprì e si trovò davanti proprio lui, Condor, il suo cavaliere. Poi la principessa si bloccò. In lontananza riuscì a scorgere Ortodonzio che camminava avvinghiato alla strega Melonia. Anche lui la vide e le fece ok con il dito. Ha fatto tutto questo per noi, Ortodonzio è un uomo meraviglioso. Se non fai troppo caso ai denti e al fatto che indossi sempre il borsello, disse la principessa. Lo so, rispose il cavalier Condor. Ha promesso di sposare l'orribile Melonia e lei lo ha liberato. E lei mi ha liberato, disse Condor. E così Ortodonzio sacrificava la sua libertà e andava a vivere insieme alla strega. giusto per qualche giorno. Infatti, prima di elaborare il suo piano, Ortodonzio aveva dato un'occhiata al fascicolo sanitario della vecchia e sapeva che avrebbe tirato le cuoia di lì a poco, lasciandogli una cospicua eredità. Bambini, qual è la morale della favola? Qual è la morale? Se pensate sempre al vostro amore imprigionato nella torre, continuerete a disperarvi in un angolo del giardino. Se invece accettate di sposare qualcuno di orribile, ma facoltoso, ricco, e vi accertate che morirà da lì a poco, vivrete per sempre felici e contenti. Ma è sgradevolissima, è insopportabile. Quindi, l'importante è controllare il conto in banca delle persone che frequentate e che volete amare, per potervi eventualmente sposare con loro. Questa è la morale della favola, cari bambini. Insopportabile. Arrivederci con la prossima favola e le prossime avventure del clown Neronello, l'amico dei bambini. Yup. Muova anche un po' le mani così. Yup. È bello perché il radio si vede benissimo, tra l'altro. Magari c'è qualcuno che ci segue su Facebook. Ma faccia vedere come fa Yup. Yup, Neronello, l'amico dei bambini. Va bene, signori. Oggi è venerdì. Venerdì, sì, ci ritroviamo lunedì alle 9. Andrà a fare qualche spettacolo per bambini questo weekend, il clown Neronello? Questa settimana no, non sono impegnato in spettacoli per bimbi. Va bene, allora, pazienza. Se volete, contattateci che vi mandiamo il clown Neronello. Noi ci troviamo lunedì alle 9. Non mi rompete i coglioni, mia bella sposa, qualunque cosa sarà il minore dei mali. È venerdì, non ci rompete i coglioni, qualunque cosa, mia bella sposa, il venerdì resta fuori. Nessuno, nessuno, 100.000. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.